Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buongiorno, benvenuti a Magazine 24, il nostro appuntamento con la stampa periodica. E questa mattina abbiamo una novità sul proprio a proposito di stampa periodica. Ho tra le mani l'ultimo numero di Panorama e soprattutto abbiamo al telefono il direttore di Panorama, Giorgio Mulè. Buongiorno, buongiorno direttore. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, il Panorama ha completamente rinnovato non solo la grafica, ma proprio la disposizione degli argomenti. Io spero che tutti gli ascoltatori abbiano naturalmente in mano una copia di Panorama così da poterci seguire nella nostra chiacchierata di questa mattina, ma per quei pochi che non l'avessero ancora trovata, vuoi spiegare tu come avete rinnovato il settimanale? Guarda, è un giornale totalmente ripensato dalla copertina fino all'ultima pagina. È un giornale che vuole essere fluido, vuole essere liquido e che per far questo ha abbattuto i confini che separano abitualmente le sezioni dei giornali, e cioè siamo abituati a leggere nei giornali prima la politica, poi la cronaca, gli esteri, l'economia. Nel nuovo Panorama non c'è più nulla di tutto questo. Il nuovo Panorama dà spazio ai fatti e li mette uno in fila all'altro a seconda dell'importanza che hanno, siano essi di economia, di cultura, di qualsiasi sezione. Questo vuol dire che è un giornale che obbedisce soltanto a quello che ritiene essere un bisogno informativo, cioè un giornale che deve soddisfare questi bisogni informativi, e lo fa soprattutto puntando sui personaggi, sulle persone, cioè vogliamo raccontare l'attualità, quale essa sia, in quale campo sia, attraverso coloro che sono i protagonisti. Per questo abbiamo inserito una nuova sezione, una nuova parte del giornale, una nuova area che è appunto dedicata ai personaggi, che sono i più vari, sono personaggi conosciuti. Questa settimana raccontiamo la grande crisi dell'euro attraverso Giulio Tremonti, oppure sono personaggi di cui bisogna sapere che ci sono perché se ne sentirà parlare, come il candidato presidente della Colombia, che attualmente è uno sconosciuto in Italia, ma che molto presto sarà presente nelle cronache dei giornali. Tra l'altro, avete anche un ritratto molto bello, molto toccante, dell'attentato ad Atene, Paraskevi Zulia, che la donna greca soffocata dalla Molotov degli anarchici, quindi stretta attualità, ma appunto, come stavi spiegando tu, ripresa dal punto di vista delle persone coinvolte. Certo. Perché per esempio della povera Vivi nessuno si è soffermato a parlare? Ecco, allora i giornali, le televisioni l'avevano sottovalutato, comunque nella gran mole di notizie era sfuggito. Allora questa pagina serve a raccontare uno spicchio di realtà e di attualità che non c'è negli altri giornali, e sarebbe finito altrimenti annegato dentro un pezzo. Invece con la personalizzazione che abbiamo dato ci consente, non solo in questo caso ma anche di altri, di valorizzare alcune notizie e quindi approfondirle come non si può né vedere né leggere da altre parti. Ecco, a proposito di approfondire, voi state puntando decisamente sulla parte tecnologica che può andare oltre la carta, ne abbiamo parlato anche in un'altra occasione proprio qui a Magazine 24. Anche questa settimana, ad esempio, di fianco al tuo editoriale, di la tua sull'editoriale del direttore, scopri come fare a pagina 348. Il senso è collegarsi, sfruttare appunto le interattività consentite da internet, dico bene? Assolutamente sì, guarda, ho scritto che questo giornale è un trampolino che dalla carta può trasportare e trasporta i lettori attraverso una nuova esperienza di lettura su altre piattaforme, che siano esse legate al web o al telefonino o anche alla televisione, perché attraverso la carta noi diamo contenuti nuovi, aggiuntivi. Abbiamo delle inchieste in cui abbiamo video registrato delle testimonianze che non trovano spazio nella carta, ma che invece si possono ascoltare e guardare attraverso l'utilizzo dei codici QR. Un'altra esperienza nuova e devo dire entusiasmante è quella legata alla realtà aumentata. Basta avere una webcam sul proprio computer, mettere il codice che c'è sul giornale e la carta prende vita nel vero senso della parola, cioè partono dei video in tre dimensioni, parte della musica. È una nuova esperienza che si può fare attraverso la carta e non rinunciando al valore della carta. Quindi sostanzialmente un po' liberarsi dalla grammatica magari vecchio stile, con questa nuova scansione puntata più sui personaggi, un po' cercare di liberarsi anche dalle costrizioni, dai limiti della carta, sfruttando le nuove tecnologie. Questo è un po' il senso della proposta vostra. Io penso che oramai il sistema dell'informazione in cui viviamo ci obbliga a seguire le nuove necessità. È inutile ed era inutile restare fermi appunto alla grammatica, all'ortografia che ci diamo i professionisti dell'informazione. Bisogna avere l'umiltà di andare nei terreni, nei campi dove la gente vuole e usufruisce dell'informazione, quindi anche sull'iPhone, quindi domani sull'iPad, dove rilasceremo una nostra versione del settimanale, che però sarà interattivo. Il giornale di carta rimane l'hardware, quello che sta al centro, il nostro core business, ovviamente la nostra storia, però bisogna inseguire ed andare laddove la gente vuole fruire informazioni. Certo. Bene, grazie mille. Allora, appuntamento in edicola soprattutto. E buona giornata, grazie, direttore. Grazie e buona giornata a voi. Bene, allora abbiamo sentito quali sono le innovazioni, le nuove proposte di Panorama. Tra l'altro, proprio da Panorama abbiamo parlato di tecnologia, di superare la carta con il direttore Moulet, e proprio su Panorama c'è un confronto molto interessante tra iPad e Kindle. Innanzitutto una parentesi, devo alla cortesia di un ascoltatore che mi ha mandato una mail la corretta pronuncia di iPad. Io continuavo a dire un po' iPad, un po' iPad, invece un ascoltatore molto gentile, nonché molto più ferrato di me nella linea inglese, mi ha segnalato che la pronuncia corretta è con la A, diciamo, di amica. Quindi io ringrazio e cercherò d'ora in poi di starci più attento. Cosa propone Panorama? Un confronto tra iPad appunto e Kindle. Ora, per chi non fosse così avvezzo, così dentro queste novità tecnologiche, basti sapere che iPad è questa nuova tavoletta magnifica della Apple che appunto debutterà in Italia dal 28 maggio, servirà ad avere un rapporto diverso proprio con le riviste, i giornali, perché sarà possibile collegarsi alla rete e appunto utilizzare i media che abitualmente utilizziamo su carta, invece vederli su uno schermo, uno schermo abbastanza grande per darne dare un bel risalto e non togliere il piacere della lettura. Il Kindle è ebook, cioè il libro elettronico, consente anche qui di leggere non da un libro fisico, non da un libro di carta, ma da una tavoletta. I due sistemi sono in concorrenza, così li presenta appunto Panorama, dice ci sono quelli dell'iPad e quelli del Kindle, mettendo proprio a confronto anche dei VIP che hanno scelto l'uno o l'altro formato. Tra i sostenitori dell'iPad vi segnalo ad esempio David Letterman, che è un conduttore TV, e vi segnalo Lady Gaga, popolare cantante, che risulta tra i sostenitori dell'iPad. Tra invece i sostenitori del Kindle, l'attrice Kristen Stewart e Stephen King, lo scrittore Stephen King. Poi ci sono naturalmente i pro e i contro di questi strumenti, cioè perché l'uno è meglio dell'altro e su cosa appunto l'uno è meglio dell'altro. Sembra molto versatile, molto adatto per la lettura, sicuramente Kindle, che comunque è sul mercato da più tempo. Pare più grazioso, più carino a vedersi, appunto, sempre a giudicare dalle recensioni che vengono riportate appunto su Panorama, sembra più carino a vedersi l'iPad. E poi la compatibilità sarebbe superiore per il Kindle, sarebbe invece inferiore per il prodotto Apple, e invece la versatilità, iPad più versatile, non solo libri, è un elemento che consente di accedere a tutta una serie di contenuti multimediali in senso generale. Questo appunto il confronto per dare un po' uno sguardo sul nostro futuro prossimo, anche chissà sul futuro di questa trasmissione, che potrebbe doversi occupare presto delle riviste nel loro formato elettronico e non più nel loro formato cartaceo. Noi stiamo ancora per un po' sulla carta, passiamo a Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana ci ricorda che oggi, 15 maggio, si celebra la Giornata Internazionale della Famiglia. Devo dire, ricorrenza che, a giudicare dai magazine che abbiamo potuto sfogliare in questi giorni, non è stata molto, molto ricordata. Don Antonio Sciortino, che invece appunto fa del sostegno alla famiglia, dei problemi della famiglia, un suo punto cruciale nella linea editoriale del giornale, soprattutto ricorda i problemi specialmente legati alla famiglia e immigrazione, con un editoriale che è significativamente intitolato "Sui banchi di scuola cresce la nuova Italia". Dice anche Don Sciortino: la via familiare è un luogo privilegiato, è l'unico a favorire al meglio l'integrazione e gli scambi interculturali. Parliamo naturalmente di immigrazione. Le stesse parole di Don Sciortino sono queste: richiama la Giornata Internazionale della Famiglia, richiama l'attenzione sull'impatto delle migrazioni sulla famiglia a colori, con cui l'Italia deve sempre più fare i conti. E questo tipo di approccio appunto all'immigrazione però sembra ancora lontano, per usare sempre la conclusione di Don Sciortino, dall'approccio politico, sembra ancora lontano dall'approccio politico. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo sfogliando Famiglia Cristiana. Proprio su Famiglia Cristiana ci si occupa di un argomento di quelli sempreverdi, davvero, il nome da dare ai figli e tu come ti chiami, non solo per una guida alla scelta, anzi più che altro per vedere quali sono le tendenze che modificano, portano al successo di un nome o all'insuccesso di un altro nome, perché come spiegano Renata Maderna, Maria Gallelli, Simone Bruno e Orso La Vetri in una inchiesta abbastanza articolata che trovate su Famiglia Cristiana, i nomi hanno una sorta di parabola. Scrivono soprattutto alla fine dell'Ottocento, fino a oggi seguono un loro percorso. Inizialmente sono poco conosciuti, man mano assumono una certa notorietà, poi vengono usati da un numero sempre maggiore di persone che li impongono ai loro figli, toccando così il vertice. Dopo un po' di anni cominciano a essere avvertiti come troppo inflazionati, via via diventano meno frequenti fino a essere dimenticati. Allora, quali sono i nomi del momento di questa fase storica? È interessante la classifica che ci viene proposta perché è suddivisa per regione, che la risposta corretta è: vediamo in che regione vi trovate. Sicuramente il nome Francesco e il nome Alessandro sono tra i più diffusi per i maschi, 3,47% per Francesco, 3,16% per Alessandro. Tra le bambine invece il primato spetta al nome Giulia, 3,47%, e poco distante troviamo il nome Sofia, 3,23%. Questo è il dato nazionale, però è più interessante scoprire che effettivamente in Valle d'Aosta, ad esempio, va fortissimo Matteo, così come anche in Liguria, mentre Giulia sta stabilmente al primo posto per le bambine in entrambe le regioni e, diciamo, nella quasi totalità delle regioni italiane. Va molto bene anche Francesca, specialmente nel sud, risulta al primo posto in Basilicata e in Calabria, ad esempio. Va molto bene Martina, Campania e Puglia sono le regioni in cui è il nome preferito per le bambine. Alessandro, Francesco e direi Matteo sono i nomi sicuramente più gettonati. Spicca il primato di Giuseppe in Sicilia, contro i vari Alessandro e Francesco che si dividono un po' la quasi totalità delle regioni e delle province autonome, e il primato di Riccardo nel Veneto. Questi i dati sui nomi più diffusi per regione che troviamo appunto in Famiglia Cristiana di questa settimana. Le Giulia, tanto per concludere con un ultimo dato, le Giulia sono circa 10.000 all'anno, però c'è un esempio interessante di questa, come potremmo definirla, carsicità dei nomi, cioè andare e venire nella popolarità. L'esempio viene portato appunto dall'articolo di Famiglia Cristiana, il nome Emma. Fino a 20 anni fa era tipico delle persone anziane, era raro a fronte appunto delle Giulia, delle Sofia, ma a un certo momento è rientrato un po' nel giro, non perché ci fosse un personaggio famoso di riferimento, cosa che spesso fa da traino un nome, ma perché pian piano si è diffuso tra i bambini, è un nome internazionale e ha avuto un grande sviluppo. Attualmente il nome Emma è al 13° posto in classifica, ma sta ancora crescendo. E da ieri avete trovato in edicola anche il è il mensile del Sole 24 Ore, Intelligence in Lifestyle significa la sigla, ma più comodamente il lo trovate in vendita con il nostro quotidiano. Come sempre il presenta una serie di interventi molto interessanti, di approfondimenti molto interessanti, ve ne leggo alcuni, poi rimandandovi naturalmente alla consultazione diretta in edicola. Ad esempio, non sapevo che a New York sta dilagando la moda del ristorante itinerante. Da noi ancora, come dire, siamo improvvidi e li chiamiamo magari baracchini, ma con tutto il rispetto, questi punti di ristorazione ambulante, quindi punti di ristorazione come possono essere montati su furgoni o comunque su roulotte, sono invece l'ultima moda, l'ultimo grido appunto nella grande mela. Sentite cosa scrive Damiano Beltrami su Il: ogni sabato mattina verso le 11 un elegante camioncino bianco parcheggia tra le case coloniali di Park Slope a Brooklyn e in pochi minuti c'è gente che fa la fila per comprare a $6 una scatoletta graziosa come una bomboniera. Dentro ci sono 6 ravioli cinesi allineati in 2 file ordinate da 3, con la salsa di soia in un piccolo contenitore. L'adesivo sul coperchio dice dip me, cioè letteralmente intingimi. Sono freschi, li assapori tranquillamente a casa, sorride la signora Camille McLaughlin davanti al furgone di Rickshaw Dumpling. Perché mai dovrei andare al loro ristorante? Ecco, perché questa è la novità, che sono proprio i ristoranti a portare quasi a domicilio o vicino al domicilio dei clienti, dei potenziali clienti, i loro stessi cibi. Food truck li chiamano, camioncini ristorante, sono diventati il simbolo, scrive Hill, delle abitudini frugali che i newyorkesi hanno ereditato dalla crisi economica e che manterranno anche in futuro, secondo la ricerca di marketing di un'azienda che si chiama Packaged Facts. Alcuni ristoranti dalla cucina sofisticata, quindi ristoranti di lusso, hanno aperto questi camion per vendere i loro piatti super ricercati anche sulla strada. I clienti non si sono fatti attendere. Per essere certi di trovare il camioncino, però, come si fa? Perché non è neanche utile poi dover girare tutta New York per trovarlo, naturalmente ci pensa la rete. Per essere certi di trovare i ravioli, scrive infatti Hill, bisogna controllare online su Twitter. Ci metti un secondo, spiega un impiegato, mentre scorro sull'iPhone, ecco qui un'altra diavoleria di queste che vanno per la maggiore, i mini messaggi dei miei amici su Twitter, controllo anche se in zona c'è il camioncino che contiene questi ravioli. Questo è solo un caso, perché poi ci sono altri casi di ristoranti indiani, ad esempio, che hanno scelto di avere un camioncino di ristorazione in cui vendere gli stessi prodotti. Non sono più tempi, del resto, dice uno chef, da servizi da re, da camerieri in livrea. L'informalità si traduce in risparmio, non si pagano tasse, non si pagano affitti, le tasse ci sono ma sono molto basse, non si pagano affitti, e poi, cambiando posizione frequentemente a seconda di come vanno gli affari, aggirano anche quello che è l'incubo di ogni esercizio, cioè aver aperto in una zona poco redditizia. Restiamo all'estero, sempre con Hill, questa volta davvero paesi esotici. Parliamo di fiori, perché le isole Comore l'economia delle isole Comore è fortemente dipendente dalla esportazione di un fiore che si chiama Ling Ilang. Il nome in realtà più appropriato è quello di Cananga odorata. La piccola Nosy Be, scrive Paola Stringa, nell'isola dei profumi a nord del Madagascar, è sede di una minuscola distilleria di olio essenziale di Ling Ilang e ha da poco dedicato al fiore dell'estasi, questo il soprannome, un museo rurale. E in una città vicina la produzione appunto di questo fiore costituisce la riserva da cui attingono i maestri profumieri francesi. Insomma, l'arcipelago africano delle Comore utilizza appunto per il 30% nelle sue esportazioni questo tipo di fiore. È un fiore originario delle Filippine dell'Indonesia, pianta che cresce in zone insulari tropicali e ha un profumo molto penetrante, viene chiamato il fiore dei fiori. Questa è la traduzione corretta di appunto questo suo nome, Ling Ilang, è l'essenza dell'harem dei massaggi. In Europa è utilizzato per oli essenziali e per sapone. Dove vengono esportati tutti questi fiori? Beh, soprattutto in Francia, si scopre da un grafico che accompagna l'articolo, in Francia, perché per il 29,3% le esportazioni vanno a finire lì. Al secondo posto la Turchia con il 16% e poi la Grecia con un 12%. L'Italia non figura nei primi sette posti in cui avvengono le esportazioni dell'arcipelago. Concludiamo andando invece in zona araba. Dubai, l'ultima frontiera per attirare turisti facoltosi o anche non necessariamente molto facoltosi a Dubai, è quella di offrire delle cliniche dove appunto attrarre delle persone che vogliono farsi curare, che so, i denti piuttosto che il cuore, piuttosto che altri malanni. È una dei motivi che muove l'inchiesta che viene presentata proprio Suil, realizzata da Alessandro Giberti da Dubai. E con questa segnalazione dentista d'Arabia dedicata a Il, nel mensile del Sole 24 Ore che trovate in edicola, concludiamo la nostra puntata di questa mattina di Magazine 24. Io vi do appuntamento a domattina alla stessa ora alle 8:30 per una nuova puntata di Magazine 24. Ringrazio Paolo Corleoni stamane in regia, grazie mille anche a Vittoria Mussini e Margherita Aina che mi hanno aiutato a preparare questo programma. A domani.